Abbiamo due forze politiche che parlano, vengono definite dei populiste per due motivi seri, anche se questa parola ormai è talmente abusata che ci rivolta lo stomaco. Il primo, che parlano alla pancia del paese, e cioè agli istinti peggiori di tutti noi, e l'altro, che considerano il popolo come un'entità indistinta. Queste due sono due condizioni gravissime che disegnano due forze politiche ai limiti della legalità democratica. Perché? Perché parlare alla pancia del paese è l'esatto contrario di quello che prescrive la democrazia. La democrazia prevede la rappresentanza, la delega e dei tempi lunghi proprio perché la democrazia nasce dalla esperienza tremenda dei regimi totalitari, plebiscitari, autoritari del secolo scorso. Invece parlare alla pancia del paese senza tutti questi filtri significa esporre noi stessi alle soluzioni peggiori. Se il giorno dopo quel signore non italiano sediziò e uccise una signora a Roma, avessimo attraverso un meccanismo di presunta democrazia diretta fatto un referendum sulla pena di morte, in Italia avremmo la pena di morte, ovviamente. Quindi, primo, parlare alla pace del paese non va bene. Secondo, un'idea di popolo indistinta, come se il popolo non fosse invece una cosa molto complessa. Cosa vuol dire popolo? Vuol dire un'etnia? Vuole dire definire un gruppo umano per razza? Vuole dire definire un gruppo umano per antiche tradizioni, per cui gli italiani devono essere quelli che parlano italiano, che sono cattolici, che hanno avi che sono cresciuti in Italia, vissuti con queste tradizioni? Primo grande pericolo. Secondo grande pericolo, il popolo comunque non è indistinto, perché il popolo è attraversato da conflitti e infatti quando la politica funziona le forze politiche rappresentano le diverse parti in conflitto, sono partiti che rappresentano i lavoratori, partiti che rappresentano gli imprenditori, partiti che rappresentano gruppi di interesse diversi, insomma c'è una rappresentanza sociale di una società che è in una propria dialettica, questo loro non sono, questo è il primo dato. Queste forze politiche vincono le elezioni o comunque si affermano molto bene alle elezioni e acquisiscono il diritto a formare un governo, ma ancora una volta la nostra democrazia prescrive che questo governo sia frutto di una mediazione tra le forze politiche, parlamentari, tra le forze politiche che se ne fanno carico e gli organi di garanzia, tra questi il capo dello Stato, che organo di garanzia che deve prevedere che questo governo non nasca con anomalie che rischiano di inquinare il processo democratico. Questo non vuol dire che il Presidente non tenga conto del risultato elettorale, ma il risultato elettorale a sua volta deve essere sottoposto a e la famosa sovranità appartiene al popolo della nostra Costituzione, all'inizio della nostra Costituzione, ha una frasetta che la completa. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti, e sono quei limiti che sono la democrazia, perché altrimenti in qualunque momento, qualunque maggioranza potrebbe fare qualunque cosa. La sovranità in democrazia è una cosa complessa, non è la forza della maggioranza, perché altrimenti cadremmo nella dittatura della maggioranza, e la dittatura della maggioranza non è democrazia. Dunque cosa fa il Presidente? Il Presidente si rende conto che queste due forze si sono messe insieme perché hanno alcune matrici comuni, il populismo, ma che sono lontanissime tra loro e quindi cercano di fare un patto di potere. Già questa è una questione delicata che deve essere governata. E questo compete al Presidente della Repubblica. Una volta che queste forze mettono insieme un programma, il Presidente della Repubblica non può non rendersi conto che è un programma delicato, perché è un programma che si chiama contratto. Ora non esiste in democrazia un contratto, in democrazia esistono i programmi. Contratto è un termine che si riferisce a una questione economica, per esempio i contratti di lavoro, per esempio i contratti di compravendita, e che sono stringenti, perché c'è un passaggio, un trasferimento di qualcosa a fronte di qualcos'altro, no? Una casa in cambio di soldi, un'organizzazione del lavoro in cambio di salario. Non può essere un contratto un programma di governo, anche per un motivo molto semplice, che in Italia, come in qualunque democrazia avanzata, non esiste il vincolo di mandato, quindi non può essere un contratto, deve essere un programma generale che viene liberamente interpretato dai parlamentari e dai membri del governo che si trovano ad operare. Anche questa è quindi una follia che il Presidente ha cercato di controllare, contenere. Poi il Presidente del Consiglio dei Ministri, ancora una volta, il Presidente ha accettato, un Presidente del Consiglio dei Ministri proposto, lo ha accettato anche se deve essere proposto dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha ritenuto che quel nome potesse essere compatibile, anche se ha fatto trapelare, non è molto probabile che un presidente politico possa essere un presidente che non viene dalla politica, che non è stato eletto, che non è in Parlamento. È legale, è possibile. Però allora stiamo attenti ai termini che usiamo. Non è un presidente politico, è un presidente tecnico che fa comodo a coloro i quali hanno la maggioranza politica parlamentare in questo momento. L'ultima goccia che fa traboccare il vaso, impuntarsi su Savona. Ora Savona rappresenta una persona molto autorevole e che proprio per la sua autorevolezza e per avere cambiato idea sull'Europa nel corso della sua vita è particolarmente significativo. È chiaro che se una persona qualunque dicesse non mi piace tanto l'Europa non sarebbe grave, ma uno come Savona è un'opinione pesantissima sul piano nazionale ed internazionale. Ora, sulla questione dell'Europa, queste due forze politiche hanno detto tutto il contrario di tutto. Si sono visti anche in questi giorni dei collage deliziosi di affermazioni pubbliche, formali, ufficiali dei due leader Salvini e Di Maio sull'Europa. Hanno detto tutto il contrario di tutto. Vengono da forze politiche che sono cresciute nel fastidio anti-europeo, che sono cresciute nel mito che senza euro si starebbe meglio, che propongono un'idea di sovranità nazionale delirante per cui chiusi nel proprio piccolo si sarebbe più competitivi e ci si difenderebbe meglio, ma propongono poi uno come Savona. Dunque, hanno fatto per poter vincere le elezioni una politica europea rassicurante, senza pronunciarsi troppo duramente con l'Europa, anzi ritornando apparentemente europeisti, poi quando arrivano al governo tirano fuori questa carta. Questa carta non è compatibile per due motivi. Primo, è una questione talmente grossa che avrebbe dovuto essere al centro della campagna elettorale e avrebbe dovuto essere al centro del programma, che loro chiamano contratto. Secondo, questa persona rappresenta di per sé una frattura con i nostri rapporti internazionali. I nostri rapporti internazionali non sono, come crede qualcuno, delle alleanze volubili. L'Europa non è un'alleanza volubile. L'Europa è una costruzione in atto da 60 anni, il Trattato di Roma è di 60 anni fa, che è nel cuore politico della democrazia europea da 76 anni, 1942, isola di Ventotene, e che è stato scelto da tutta Europa come progetto di nazione delle nazioni. Poi non siamo ancora una nazione federale e su questo ci siamo fermati e questo è uno dei tantissimi difetti che ha l'Europa. Però l'Unione Europea è andata in avanti e adesso è vincolante, da molto tempo è vincolante. Così come una volta la Lega Nord voleva la secessione del Nord Italia dall'Italia, oggi non ci può essere un gruppo di politici che vogliono la secessione dell'Italia dall'Europa. Uscire dall'Europa è una cosa estremamente complicata, estremamente complessa, come si vede con l'Inghilterra, e già l'Inghilterra aveva un piede fuori, ma soprattutto che snaturerebbe completamente le scelte di fondo di questo paese. Ora, la Costituzione ancora una volta dice che non è nella disponibilità di un governo mettere in discussione gli accordi internazionali. Vanno sottoposti al vaglio di operazioni lunghe, complesse e raffinate. E allora cosa significava nominare Savona? Significava semplicemente intraprendere per vie surrettizie, intraprendere sottobanco il percorso di allontanamento dall'Europa senza alcuna procedura trasparente e aperta, commettendo due disastri contemporaneamente: uno, la violazione delle nostre procedure costituzionali democratiche, l'altra, l'inquietudine dei mercati internazionali e dei nostri partner europei. Ora si dice, ma l'Europa è nelle mani dei banchieri tedeschi, e allora si può dire l'Italia è stata per 20 anni nelle mani di Berlusconi, e allora faceva parte, non è che per questo si esce dall'Italia, le opposizioni a Berlusconi non hanno mai detto usciamo dall'Italia perché c'è al governo Berlusconi, oggi è egemone in Europa la Germania, bene, facciamo una sana battaglia politica, economica, con le nazioni che si sentono in minoranza in Europa e all'interno degli organismi di governo europei cerchiamo di riequilibrare le cose, ma da questo gioco non si esce più, a meno di un trauma gravissimo che comunque non può essere affrontato sotto banco come sottoprodotto di un governo. Per questo il Presidente della Repubblica ha fatto benissimo a fermare questa operazione, perché si collocava al di fuori del contesto democratico disegnato dalla nostra Costituzione. E l'individuazione di un nome come Cottarelli, che viene associato alla spending review, ai tagli e quindi alle lacrime e sangue dell'austerity, non politicamente non fa il gioco delle forze che hanno fallito la formazione di un governo? Questo non lo so, perché è molto difficile capire come il presidente sia arrivato a questo nome. È chiaro che è un nome che da una parte ha infastidito proprio per il rigore monetario da una parte, ma dall'altra parte ha anche suscitato grande fiducia nel fatto di una severità terza che non guardava in faccia a nessuno. Bisogna vedere qual è il compito di Cottarelli. Probabilmente, se il suo compito è soltanto traghettare questo paese verso le elezioni il più lentamente possibile, naturalmente, per non mancare gli appuntamenti dell'autunno, allora potrebbe essere una persona che forse ce la fa. Nel senso che è chiaro che se l'Italia sarà in campagna elettorale e sotto elezioni, oppure con le elezioni appena fatte, nel momento in cui si va a approvare la finanziaria, in cui è chiaro che si rischiano problemi molto gravi, per cui Cottarelli potrebbe essere una persona che convoca un governo, che costruisce un governo elettorale ma non rapidissimo. Comunque è una persona che propone un'immagine di serietà, di severità che rassicura anche l'Europa, che è il nostro grande problema. Noi abbiamo uno spread che sta salendo vertiginosamente con questi pasticci che stanno accadendo, le borse calano e noi siamo un paese con un grande debito. Ora, io non farò qui la morale neoliberista sul debito, perché non sono neoliberista e perché credo che sia una grande differenza tra debito e deficit. Il debito, come ci ha insegnato Keynes, mi sembra banale, è un ottimo strumento di crescita, quindi non demonizzo il debito. Il problema è che il debito deve essere un debito gestibile, e allora perché il debito sia gestibile bisogna che l'interesse che si paga su quel debito sia ragionevole, e perché questo interesse sia ragionevole bisogna essere credibili, e per essere credibili bisogna avere un governo democratico e europeista.